24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 16 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 2 aprile. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Ci potete raggiungere, lo sapete, al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp. Anche audio, soprattutto audio, la vostra voce vogliamo sentire. Anche all'800 2400 24, se volete intervenire in diretta, parleremo delle passeggiatine coi bambini, delle strategie delle regioni per gestire questa crisi e poi di questa vicenda dell'INPS. Però, cara Maria, iniziamo sempre con un'occhiata, sì, diamo un'occhiata a Francia e Gran Bretagna. A quello che succede in due paesi che hanno tanti rapporti con noi. E i due giornali che tutte le mattine vi cito, il Guardian per la Gran Bretagna e il Figaro per la Francia, hanno lo stesso allarme, cioè l'allarme dei prodotti sanitari che mancano. Il Guardian dice qualcosa che è stato oggetto di tragico dibattito anche da noi in queste settimane, e cioè i pazienti che sono purtroppo prossimi alla morte in qualche ospedale britannico si vedono sottrarre i ventilatori, perché mancano i ventilatori e quindi vanno dati a pazienti che stanno meglio di loro. È un po' quello che succede anche in Spagna, dove vengono intubati i più giovani e gli anziani vengono fatti attendere. Allarme anche per quanto riguarda il titolo del Figaro, perché si dice che nelle rianimazioni mancano le medicine, perché nelle rianimazioni, per tenere tranquilli i pazienti intubati, devono dargli morfina, devono dargli medicine, farmaci che in questo momento, dice Le Figaro, cominciano a mancare. Ma questi sono giorni in cui, accanto agli allarmi, e ne abbiamo visti tanti in questi giorni, c'è anche da fare una riflessione. Mi ha colpito, Simone, sfogliando i giornali questa mattina, vedere un annuncio a firma di una grande azienda italiana, penso che si possa citare senza correre il rischio di fare pubblicità. Devo dire che Barilla dice, ha fatto una bella operazione. Ha fatto bella operazione. Questa doppia pagina di ringraziamento con tutti i nomi dei suoi dipendenti. E allora mi veniva da dire che in questa fase tutti noi, no, ci troviamo a valutare, a cominciare da noi stessi, chi si comporta bene e chi si comporta male. Abbiamo avuto Armani che produce camici, tante imprese che hanno fatto importanti donazioni, ma non solo aziende italiane. Ieri Chanel ha annunciato di voler tenere ferma l'occupazione, perché dice, i nostri dipendenti sono la nostra merce più preziosa e non vogliamo ricorrere ad aiuti di Stati. Poi certo ci sono anche alcune multinazionali che hanno fatto scelte diverse rispetto ai loro dipendenti, però il Covid-19 segnerà uno spartiacque tra chi si è comportato bene in politica, nelle aziende, tra tutti noi, e chi si è comportato male. E tra chi si è comportato male sceglierei di citare il New York Times, che ha segnalato purtroppo come alcuni avvocati americani siano corsi subito a offrire le loro disponibilità per fare causa ai medici. Sono corsi dai parenti di persone che erano decedute. Che è una cosa che è già successa anche in Italia. Comunque, per fortuna il Consiglio Nazionale Forense Italiano ha assicurato che ci saranno sanzioni. Devo essere franco, avvocati, io questa tua idea, in una terra incognita come questa, quest'idea manichea del chi si è comportato bene o male, non la condivido un granché, però ne potremo discutere. Penso che ci sarà una selezione manichea tra chi si è comportato bene e chi si è comportato male. No, io credo che ci sarà un bisogno di comportarsi in modo diverso, solidale, a cominciare da tutti noi. Va bene, allora iniziamo, veniamo al primo tema, questa questione dei bambini. Con il presidente del Consiglio Conte che ieri ha detto in conferenza stampa, mi pare un po' aumentando la confusione, che la passeggiatina non si può fare, però te li puoi portare al supermercato. Prima di andare al nostro primo ospite, un paio di voci di ascoltatori, va. Ma quanto siete esagerati? Ma che male c'è stare un po' fuori, affacciarsi dalla porta e fare un giretto? Il cane sì e il bambino no. A questo punto, se è così pericoloso, chiudiamo anche le metropolitane, visto il caos che si è creato con la riduzione dei mezzi pubblici a Milano. Grazie. Io giustamente non posso uscire col mio bambino per andare a fare una passeggiatina, però i proprietari di cani si ritrovano in 7, 8, 10 a fare le loro chiacchieratine e i loro cuccioletti che corrono a destra e a manca. Oh, capito i nostri ascoltatori. Oh, posso naturalmente da proprietario di cane e con tre figli dico, il cane, i bambini in genere la fanno nel water, i cani no, insomma. Comunque, diciamo, però quindi il discorso è un po' diverso. Si fa subito la guerra, schieramento, guerra, proprietari di cani, senti, contro chi c'ha bambini. Che diamine. Micidiale. Senti, parliamone con chi ne capisce, va. Daniele Novara, che è uno dei più noti pedagogisti italiani, direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Novara, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Allora, eccomi qua. A passeggio coi bimbi oppure no? Andiamo subito brutali. Beh, io sono favorevole, l'ho dichiarato da subito, era una misura attesa, quindi ben venga, nel senso che i bambini indubbiamente per la loro natura sono quelli che si stanno adattando meglio alla situazione, anche perché in un certo senso per loro può essere gradevole stare appiccicati ai genitori praticamente 24 ore al giorno, però c'è un però che dal punto di vista della crescita neurovegetativa, neurocognitiva, da tutti i punti di vista dei parametri della crescita dovrebbero fare un'altra vita, ecco, non una vita di contenzione, diciamo, dovrebbero fare una vita più attiva sul piano motorio e vabbè, dovrebbero fare anche una vita più attiva sul piano sociale. Questo indice non è assolutamente possibile, però recuperare qualcosa sul piano motorio mi sembra una questione di buon senso, proprio perché il danno c'è sui bambini. Allora, proprio ecco, a proposito di buon senso, professor Novara, invece di guardare i bambini che probabilmente, insomma, se escono non è che saranno proprio del tutto responsabili delle loro azioni, soprattutto se molto piccoli, proviamo a dare qualche indicazione ai genitori, perché la norma prevede portarsi i bambini dietro quando si va a fare la spesa. Quindi lei ai genitori suggerisce di evitare di fermarsi a fare quattro chiacchiere tra mamme con tutti i bambini, magari una mezz'oretta fuori al supermercato. Quale può essere, diciamo, il suggerimento di buon senso, appunto, citando quello che evocava lei, ai genitori? Ma guardi, il dispositivo è molto molto chiaro, come avevamo auspicato, cioè dare indicazioni precise e mettere delle ordinanze che sul piano operativo non lasciano dei margini di immaginazione. E per cui è chiaro, il bambino può uscire nelle vicinanze della casa con un solo genitore, senza giocattoli di alcun tipo, e non può aggregarsi in alcun modo ad altri bambini o ad altri adulti. Ecco, bisogna anche leggerle le ordinanze, lo dico per chi in questi giorni ha fatto, secondo me, delle inutili polemiche. Ecco, io condivido quello che hanno detto i vostri ascoltatori all'inizio, che mi sembra un po', come dire, l'argomento principe. Ecco, se proprio volevamo blindare tutto, lo dovevamo fare con i supermercati, con le edicole e specialmente con i padroni degli animali domestici, perché alcuni stati hanno scelto di impedire anche l'uscita con i cani. Io non ho cani, quindi non so come il poverello farà poi nella vita concreta. Ma attenzione, i bambini sono il nostro futuro. Ecco, abbiamo bisogno di fare le mosse giuste, insomma. Ma con tutto rispetto, i cani non ci garantiscono il futuro, ma i bambini sì. E quindi tutelare la loro salute psicologica. Ecco, professore, c'è qualche ascoltatore che non ha ancora capito come stanno le cose e ci scrive, dice, dovrebbero portare i bambini negli ospedali a trovare i nonni. No. Questo assolutamente no. Cioè proprio la cosa da non fare. Per i nonni. Anche non lasciarli con i nonni in questo periodo sarebbe meglio, tutto sommato, no? Guardi, lo dico da nonno, ormai quasi un mese e mezzo che non vedo i miei splendidi nipotini. Una delle cose che assolutamente mi pesa di più, ma che responsabilmente è in questo momento una delle questioni assolutamente più importanti. Poi ecco, vi rispondo da Piacenza. Sì, uno degli epicentri della crisi. Al momento l'epicentro della crisi, sì. In termini percentuali, quindi bisogna fare un'attenzione assoluta, però questa circolare, questa normativa è chiara, bisogna continuare così, cioè a dare alla popolazione delle indicazioni chiare, non delle chiacchiere. Senta, i politici fanno i loro commenti, lì parte la confusione. Senta, è una fase ovviamente particolare, è una fase che porterà a un incremento inevitabile di utilizzo di TV, videogiochi, device elettronici. Ci deve creare qualche preoccupazione a noi genitori questa cosa, Novara, o evidentemente la fase talmente eccezionale che stiamo vivendo, che anche i bambini evidentemente percepiscono, ci può far stare abbastanza tranquilli che sarà percepita come tale? Ma guardi, un po' di tolleranza ovviamente ci vuole, ma no. Non bisogna esagerare, perché è chiaro che se il cervello viene agganciato per troppo tempo, specialmente i videogiochi, specialmente una certa categoria di videogiochi, sto parlando dei cosiddetti sparatutto, per degli orari terrificanti. Ecco, ieri ero in consulenza con dei genitori che vivono all'estero, in Olanda. Ecco, ci sono delle esagerazioni, ci sono dei genitori che addirittura creano le cosiddette gaming room con dei mega schermi per tenere lì. Forse un pochino troppo. Ecco, bisogna dire che un bambino può stare in un contesto di videoschermo un'ora, un'ora e mezza, ecco, di questi tempi, al limite anche qualcosina in più. Un ragazzo assolutamente non deve stare in termini continuativi per più di 2 ore, perché poi altrimenti il cervello viene agganciato e non c'è più reversibilità. È questo il punto. Sì. Forse, professore, si può cogliere una sfida da genitore e applicarsi a quegli antichi giochi da tavolo che si facevano 20 anni fa e che poi si è smesso di fare. Questo implica un coinvolgimento del genitore che non sempre è disponibile, lo smart working e poi il gioco da tavolo. Non facile questo periodo nemmeno per i genitori. No, bisogna riconoscerlo. I giochi bellissimi, i giochi di carta italiani, Briscola, Scopo, eccetera eccetera, che peraltro sono giochi scolastici, sì. Perché i giochi con le carte attivano le competenze matematiche, non parliamo poi degli stati, ecco, della logica sono straordinari, dovrebbero essere dentro la didattica per antonomasia. Ecco, quindi riscoprire tutto questo ci permette anche di uscire dall'ossessione della scuola video lezionistica, ecco, con gli alunni che sì. Sono operati di video lezioni. Io non so francamente cosa resterà alla fine di questa crisi, di tutto questo eccesso, no? successo. Certo, è certo di video lezioni. Allora, professor Novara, Daniele Novara, pedagogista, direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata. Abbiamo gettato un sasso nello stagno, perché molti ascoltatori ci stanno dicendo invece no, guardate, no, no, devono rimanere a casa anche loro, anche i bambini. Discussione aperta, come sentite. Novara, buona giornata. Buona giornata. Grazie, tantissimo, buona giornata. Una pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo. Voglio rispondere ad un ascoltatore perché è un tema che mi interessa. Dice, senza offesa, ci sono videogiochi che sono letteralmente delle opere d'arte. Sono perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo. Diciamo così, che 3-4 ore al giorno di sparatutto sicuramente possono creare qualche problema. Come al solito non bisogna eccedere, molto semplicemente, però è vero, ci sono dei videogiochi che sono letteralmente delle opere d'arte. Oh, io comunque dopo questa chiacchierata e dopo aver letto che Renzo Piano trascorre le ore giocando a scacchi col figlio, ho deciso per farci sentire che siamo dei poveracci noi che giochiamo coi computer, capito? No, è là, no, Renzo Piano di dice ho gioco deciso a scacchi di comprarmi con mio figlio. Gli scacchi, ho deciso di comprarmi gli scacchi, un gioco al quale non mi sono mai, diciamo, affidata, e di provare, chissà, magari davvero è un bel modo di, anche un nostro ascoltatore ce lo consiglia, è un bel modo di far passare il tempo. Oh. Oppure più semplicemente la vecchia dama, chissà quanti di voi da piccoli giocavano a dama e poi hanno smesso, magari si ricomincia, pure mercante in fiera, non lo so. Mercante in fiera però ci vuole tanta gente, quindi non si può, è assembramento, oppure niente. Con quattro diciamo familiari si può fare, famiglie numerose. Noi invece ai giochi da tavolo che ovviamente facciamo affianchiamo, così dato a scacchi, Death Stranding, un videogioco pazzesco, meraviglioso, e tra poco esce il nuovo Final Fantasy. Comunque quelle sono opere d'arte davvero. Domenico da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Chiamo dalla Sicilia, da Palermo. Allora, io sono, ascoltando Radio 24, io in qualità di docente di una scuola superiore, e volevo segnalare anche quest'altro problema che secondo me è abbastanza interessante. Gli studi pedagogici che sono stati da sempre fatti, che riguardano un po' quelli che sono i rendimenti degli alunni, per quanto riguarda appunto gli apprendimenti, chiaramente tengono conto del fatto che lo studente realizza al meglio le proprie attività scolastiche in tema di apprendimento, anche e soprattutto continuando a svolgere quelle attività motorie che normalmente fanno pomeriggio, quando vanno in palestra, quando fanno attività sportive, che sono fondamentali per quello che appunto sono gli equilibri di uno studente, di realizzare al meglio sia quelle che sono le attività di apprendimento dal punto di vista mentale, sia dal punto di vista appunto delle attività motorie, che li chiaramente li scaricano anche sotto tanti aspetti da quel carico, da quella pressione che subiscono dal fatto di dover applicarsi dal punto di vista mentale. Questo è un problema. Sì, è un problema, sicuramente, un Domenico, problema. Dall'altra parte mi permetto di dire, dato che ho due figli, ne ho tre, due ne hanno 14 anni e 16 anni, si possono anche fare gli esercizi a casa. Quella è una cosa che si può fare tranquillamente. E comunque, poi, professore, qual è la pressione dell'apprendimento alla quale sono sottoposti in questo periodo? Io ho in casa invece un nipote, il figlio di mio fratello, e non è che, come dire, stanno lavorando proprio tantissimo questi ragazzi, francamente. Quindi sì, sono d'accordo con Simone, un po' di esercizio fisico in casa, e poi la pressione in questo momento, forse la pressione del rimanere chiusi più che la pressione dell'apprendimento in questa fase. Ci sono ragazzini che ovviamente ne godono invece di questo. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. E veniamo alle strategie con le quali le singole regioni, in ordine sparso e con strategie differenti, appunto, stanno affrontando questa emergenza. Rossi, vogliamo andare da lei, che insomma, abbiamo sentito molto, per ovvi motivi, Zaia e Fontana in questo periodo, perché è chiaro che sono le due regioni più colpite, Bonaccini. Insomma, però, insomma, voi state attuando una gestione particolare, Rossi, no? No, da un primo screening sierologico, governatore, sì, ci conferma che quello fatto sul personale sanitario negli ospedali della Toscana, più del 95% risulta negativo, quindi gli ospedali sono diventati luoghi di diffusione del virus. Ma questo almeno ci risulta, da questo primo screening e dai primi risultati, poi adesso li stiamo incrociando con i tamponi, però insomma è un dato incoraggiante. Noi fin dall'inizio ci siamo preoccupati di proteggere la risorsa ospedale, anche perché, insomma, guardando, avendo avuto la fortuna o la sfortuna per gli altri di essere avanti a noi, noi abbiamo guardato alcune situazioni, abbiamo visto che, insomma, l'ospedale può diventare luogo di infezione, è il punto da cui può partire persino. Sono un po' alcuni esempi che si è visto in qualche regione del nord. E quindi, insomma, su questo abbiamo detto, prima di tutto proteggere gli ospedali, tampone a tutti coloro che vogliono ricoverarsi, il pronto soccorso deve diventare un filtro durissimo, il tampone agli asintomatici e non solo asintomatici, quindi chi si ricovera è stato subito, come dire, rilevato, se positivo o negativo. Se positivo è stato mandato in un'area che abbiamo chiamato bolla, l'area appunto Covid, e lì è stato curato. E se negativo invece ha potuto andare nelle altre parti dell'ospedale ed essere curato in altre parti. È interessante che in area Covid ci sono persone che per una percentuale minima però risulterebbero essere un numero inferiore rispetto ai positivi che si trovano per personale in area no Covid. La percentuale è molto bassa, occorre fare anche ovviamente altre verifiche, ma insomma ci dice che la risorsa ospedale l'abbiamo tutelata. Ecco, che mi sembra Rossi, il tema fondamentale, ed è quello che stanno cercando di fare anche altri paesi, è la Francia dei punti intermedi, così come ce li ha la Svizzera, insomma, no? Certo. No, poi ecco, l'altra cosa è, bisogna costruire tante terapie intensive, questo è giusto. Noi abbiamo avuto grandi investimenti negli ospedali e nuovi ospedali, anche i posti di medicina generale, si possono convertire rapidamente, hanno un sistema di aerazione, poi hanno tutti i canali dei gas, e un posto letto anche di medicina generale, noi nei nuovi ospedali abbiamo potuto convertirlo rapidamente in un posto letto di terapia intensiva. Più abbiamo riaperto alcuni vecchi ospedali che erano ancora pronti, usabili, e quindi insomma abbiamo una dotazione notevole di posti letto di terapia intensiva, però non basta l'ospedale. Ecco, fatto questo in estrema urgenza, noi ci siamo subito rivolti al territorio, le cure intermedie, siete organizzati, il ruolo del medico di famiglia. Sì, un po' sì. Come vi siete organizzati per i ventilatori, per tutti i farmaci che servono, ad esempio, per tenere sedati i pazienti che non respirano? Avevate fatto delle scorte prima? Come vi siete organizzati? Avevamo alcune riserve che derivavano dalla SARS. Io ero ancora assessore quando ci fu questo problema, che poi non ebbe esiti né in Italia né negativi, insomma, 250 morti se ricordo in tutta Europa, ebbe un effetto davvero limitato, però avevamo comprato già allora diversi strumenti, le CPAP, i respiratori, li avevamo comprati, gli ECMO, e li avevamo tenuti in efficienza, insomma, e questo ci ha aiutato. Poi abbiamo avuto qualcosa anche dalla Protezione Civile Nazionale, che ringrazio, e poi abbiamo provato a comprare direttamente dalla Cina alcuni respiratori, alcuni ventilatori, ce ne sono arrivati una quarantina, quindi noi stiamo allestendo queste terapie intensive, perché ragioniamo con la metafora militare, ecco, che tanto va di moda, sì, insomma spiega. In questo periodo sì. Questo periodo è abusato. Un po' troppo. Diciamo che gli ospedali sono le roccaforti, se perdiamo le roccaforti è perso tutto, infatti si va in un disastro. però la battaglia si vince sul territorio, quindi la battaglia si vince davvero facendo iniziative, tamponi sul territorio, screening. Adesso noi puntiamo soprattutto sulle casse di riposo, sulle RSA, sulle residenze per disabili, e lì stiamo facendo lo screening serologico. Lo screening serologico ci avverte intanto se c'è un caso positivo, positivo nel senso di IgM, cioè coloro che sono in fase di sviluppo degli anticorpi. Se lo individuiamo, mettiamo la struttura in quarantena, facciamo il tampone a tutti, perché abbiamo dato l'ordine di fare il tampone a tutti, e poi anche le RSA le dividiamo in area Covid e area no Covid. E questo insomma è un modo importante per intervenire su una parte fragile della popolazione. E poi adesso vogliamo mobilitare i medici di famiglia di più di quanto non sia accaduto finora. Senta Rossi, diceva del territorio, una parte è questa questione alla quale ci accennava delle RSA, che però sta arrivando adesso sostanzialmente. In realtà voi l'avete affrontata partendo dal territorio fin dall'inizio, da quel che ho capito, con un'informazione più puntuale verso i medici di base e una gestione più attenta delle persone che chiedevano informazioni, delle persone che eventualmente avevano bisogno, esattamente per scaricare almeno in parte gli ospedali del peso di tutto questo e non farli diventare veicolo di infezione. Ci dà qualche dettaglio in più? Giustissimo, sì, per quanto appunto si rafforzi l'ospedale, è chiaro che di fronte ad un'epidemia i posti letto che si vengono decuplicati non ce la faranno mai. Quindi noi ai medici di famiglia abbiamo detto: tenete il telefono acceso dalle 8 la mattina alle 8, almeno alle 20 la sera, della sera, e chiamate il vostro medico. Se il vostro medico ha la percezione che state sviluppando dubbi, che state sviluppando l'infezione, deve chiamare l'igiene pubblica, deve chiamare il dipartimento di prevenzione, e poi il dipartimento di prevenzione va a casa e effettua il prelievo del tampone. Noi per ora, francamente, anche nelle situazioni più difficili, quelle che sono Massa Carrara, Lucca, Pistoia, dove abbiamo avuto insomma un impatto anche noi abbastanza forte dell'infezione, noi a casa non abbiamo lasciato nessuno, chi aveva problemi lo abbiamo ricoverato. Poi al medico di famiglia adesso abbiamo dato anche l'opportunità, chiedendo ad un gruppo di esperti, di cominciare a prescrivere qualcosa. Io non sono esperto in questa materia, mi faccio dire così, di idrossiclorochina, qualcosa di simile al chinino, più combinata con altri farmaci che hanno un effetto, diciamo, calmante, hanno un effetto non certo di risolvere il problema, ma almeno in parte di calmare la situazione. Quindi uno può stare a casa sua in isolamento, poi abbiamo costruito anche essere curato con questi farmaci, poi abbiamo costruito gli alberghi sanitari. Se non può o non vuole stare a casa sua perché magari teme di infettare in famiglia, soprattutto le persone anziane o comunque familiari, noi offriamo l'albergo sanitario dove si sta in isolamento e dove l'isolamento è sorvegliato da un infermiere e da un medico. Oltre agli alberghi sanitari abbiamo costruito davvero tanti posti di cure intermedie. Per noi le cure intermedie è già un posto letto che garantisce l'erogazione di ossigeno, diciamo una minima ossigenoterapia, quindi chi ha problemi respiratori prima di andare in ospedale ha diversi passaggi da fare. Ecco, se poi Presidente, grave, a proposito a proposito di alberghi, quanta preoccupazione c'è per una regione come la sua, la Toscana, che vive di turismo sia sulla costa che nelle città d'arte? Che cosa prevedete di fare per tamponare appunto un problema turismo che vi vedrà, come tutte le regioni d'Italia, piuttosto in crisi e svantaggiati? Da noi è una percentuale forte del nostro PIL, siamo direttamente intorno al 12%, ma poi c'è tutto un mondo che si muove intorno al turismo, diventa difficile anche da calcolare. È un problema enorme. Io credo che purtroppo non ci sarà a breve tempo la ripresa del turismo, ma insomma non penso di essere un grande economista di questo. E quindi bisognerà trovare degli strumenti perché ci sia sostegno alle imprese, sostegno anche ai lavoratori che lavorano in questo settore. lavoratore, sostegno anche a coloro che insomma avevano contratti a tempo determinato, altrimenti si produrrà davvero un livello di impatto sulle famiglie che non diventa sostenibile alla lunga. E poi speriamo che il mondo si riprenda e prepariamoci al rilancio della Toscana. C'è un'immagine che forse sta uscendo, un po' perché siamo stati anche fortunati, come dice, ci vuole sempre una combinazione tra fortuna e capacità di agire, di intervenire per indirizzare il corso delle cose. Però la Toscana si presenta bene, mi faccia dire. Se usciremo come stiamo uscendo, speriamo, con tutte le difficoltà, con i tempi che ci vorranno da questa situazione, immagine di una regione sana, pulita, di una regione anche accogliente, ovviamente bella, perché insomma, questa, senza che noi abbiamo fatto tanto, ce la siamo trovata bella, si tratta di conservarla. È un'immagine che può davvero ritornare vincente e rilanciare anche un turismo di qualità, che è quello di cui abbiamo bisogno. Ci sarà però sicuramente, finché non c'è una svolta vera a livello mondiale, una situazione che soprattutto nel settore del turismo io immagino sarà fortemente critica, e sì, per questo ci appelliamo davvero a interventi che devono essere fatti a livello nazionale da parte del governo, sì. Scarico sul governo, ecco, vedo che si stanno impegnando e anche in Europa stanno accadendo cose che soltanto qualche mese fa erano inimmaginabili. Speriamo. Enrico Rossi, grazie, Presidente della Regione Toscana, per essere stato con noi. Buona giornata. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Allora, il prossimo argomento col quale andiamo a chiudere lo introduciamo con un paio di ascoltatori. Sono un commercialista della provincia di Milano. Mi sono recato stamane in studio in ampio anticipo per poter verificare la funzionalità della piattaforma, intendo quella della richiesta bonus 600 euro. Ovviamente non funziona, ti consente di arrivare fino a un certo punto e poi ti estromette dalla procedura. Pertanto, oggi come ieri, il servizio è inutilizzabile. Buongiorno, io ho dovuto puntare la sveglia alle 3:30 di stanotte per fare questo collegamento all'INPS per indennità di 600 euro ed è stato veramente svilente dover crearsi una sveglia alle 3:30 di notte per fare una domanda di cui si parlava ormai da mesi. E insomma, l'INPS, il caos di ieri sul sito e anche questa mostruosa violazione della privacy avvenuta non si sa bene per cosa. Un hacker, dice il presidente Tridico, alcuni giornali scrivono un errore. Noi siamo con Guglielmo Loi, che è presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS. Buongiorno Loi, benvenuto. Buongiorno e buon ascolto a tutti. Prego Maria. Buongiorno Loi. Buongiorno. Io ho una curiosità. Chi gestisce il sito? E quanto lo paga l'istituto per questa gestione informatica? Diciamo, il sito è ovviamente è in gestione diretta, con però un forte supporto di fornitori esterni, cioè ci sono alcune aziende, grandi aziende, che supportano l'attività informatica dell'istituto, circa dai 400 ai 430 milioni l'anno, l'importo del costo generale dell'infrastruttura informatica. E come hanno spiegato questi che prendono 450 milioni euro l'anno la crisi, la grande crisi di ieri? Non l'hanno spiegata, salvo questa ipotesi di hackeraggio che, come vediamo e come leggiamo, è tutto ancora appunto da verificare, da dimostrare. Ci sono le indagini della polizia postale, insomma ci sono tesi contrapposte. Io dal punto di vista nostro, conoscendo l'attività e vigilando sull'attività dell'istituto, direi che c'è un problema, come si dice, in origine. Un istituto che nel tempo è stato caricato e sovraccaricato di funzioni, peraltro molto massive dal punto di vista della quantità degli utenti. Si dice, insomma, il calcolo di queste settimane è che circa 10 milioni di persone si relazioneranno con l'istituto, il che vuol dire che una macchina per andare a 120 ha un motore, oggi deve andare a 160, ma il motore è sempre lo stesso, perché nel frattempo il taglio degli investimenti oggettivamente calato molto negli anni con un piccolo recupero alla fine, insomma sostanzialmente abbiamo una macchina di media cilindrata che deve fare 2000 km in due giorni, è ovvio che il motore rischia di andare in tilt. Qua in origine il problema, adesso non per usare parole un po' antiche, insomma è politico, cioè non, il legislatore non può pensare di risolvere tutte le questioni diciamo dell'assistenza dello Stato sociale individuando un unico soggetto che sviluppa relazioni con milioni e milioni di persone ogni anno, e con l'emergenza questa cosa. Oppure se lo carichi, oppure Loi, mi sembra di capire, se lo carichi di queste esigenze, beh, gli devi dare anche le risorse per farlo, anche semplicemente le risorse tecnologiche, degli indirizzi per le risorse tecnologiche. Esattamente così, se posso individuare una responsabilità dell'istituto è quella di non aver allertato sufficientemente probabilmente il legislatore, che se tu in cinque giorni decidi una manovra comprensibile e in gran parte condivisibile di aiuto a milioni di persone, devi preavvisare le problematiche cui puoi andare incontro, cioè mettere il petto in fuori e dire faremo tutto senza responsabilizzare chi ti affida questa funzione, forse è stata una sottovalutazione o un errore, insomma, e quindi è chiaro che un sito nato per fornire determinate prestazioni, peraltro devo dire che l'anno scorso sul reddito di cittadinanza, al di là dei dubbi che ognuno può avere sulla misura, ha funzionato, cioè sono state caricate 2 milioni di carte in poco tempo, ripeto, al di là del giudizio che possiamo dare, ma in questo caso l'infrastruttura ha retto e ha funzionato abbastanza bene. Senta, sì. Loi, ma adesso le domande potranno essere fatte regolarmente, come funzionerà? Allora, diamo un po' di informazioni di pratiche. La novità di questa notte è questa, e poi se c'ho un minuto dico anche la mia su questo. Prego, sì, è stato sì, un comunicato di questa notte che l'INPS ha abilitato l'accesso per le domande, soprattutto il bonus, poi avremo un problema sulla cassa integrazione più avanti, insomma, fra qualche giorno. Sui bonus vari, dedicando l'accesso per l'inoltro della domanda dalle 8 di stamattina alle 4 di pomeriggio ai cosiddetti intermediari. Se c'è un minuto, 30 sì. secondi, spiego pure cos'è. Patronati, patronati, professionisti, associazioni di impresa, insomma tutti coloro che in base ad alcune regole sono accreditate per rappresentare anche le singole persone, imprese e cittadini e lavoratori nell'inoltro della domanda, e anche una tutela di natura legale, se vogliamo, sì. cioè di salvaguardia. E tenete conto che nell'anno scorso l'80% delle domande arrivate all'INPS a situazione pre-Covid erano filtrate, mediate, intermediate da questi soggetti. Quindi l'INPS gli arrivavano le pratiche già lavorate con un canale dedicato agli intermediari. L'altro 20% erano cittadini singoli o che vanno alla sede o che usano il PIN per trasmettere la pratica. Quindi la novità è questa, che oggi dalle 8 alle 16 intermediari, quelli abilitati, dalle 16 in poi cittadini single nel senso singoli, non insomma, se sono singolo, sì. lo sappiamo. Questa è la novità, sì. che però indica, se mi consentite, un'ammissione di sottovalutazione dell'impatto quantitativo delle domande individuali, e non avendo fatto una campagna adeguata a sostegno, adesso la dico brutale, degli intermediari, perché tutta la comunicazione dell'istituto, che l'abbiamo detto e scritto mille volte come consiglio di vigilanza, era dedicata a un rapporto diretto tra utente e istituto, diciamo tra virgolette, emarginando l'intermediazione, sembrano richiami politici, poi ognuno sì. può fare le considerazioni che vuole, diciamo attenuando il valore dell'intermediazione, in questo caso un'intermediazione tecnica e professionale, e si sia ritrovati che centinaia di migliaia di persone individualmente hanno cercato di entrare nel sito. Può essere anche questa una causa del sovraccaricare. L'INPS fa una, l'istituto, la parte diciamo gestionale, fa una parziale marcia indietro e dice ok, prima in questa giornata cominciamo a far lavorare gli intermediari, e poi apriamo ai singoli cittadini. Sì. Allora, noi dobbiamo veramente chiudere, grazie per essere stato con noi, a Guglielmo Loi, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, con insomma le note che ci ha dato e gli elementi che ci ha dato. Cara Maria, ci risentiamo domani naturalmente 8:20. A domani, ciao a tutti. Grazie, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, Peter Bescapè in regia, Laura Vanossi in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione insieme a Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo invece domani mattina alle 6:30, ciao!